Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Povertà non è miseria, come credono i miei obiettori di sinistra. Povertà non è comunismo, come credono i miei rozzi obiettori di destra. Povertà è un'ideologia politica ed economica. Povertà è godere di beni minimi e necessari, quali il cibo necessario e non superfluo, il vestiario necessario, la casa necessaria e non superflua. Povertà e necessità nazionale sono i mezzi pubblici di locomozione. Necessaria è la salute delle proprie gambe per andare a piedi. Superflua è l'automobile, le motociclette, le famose e cretinissime barche. Cari miei, la decrescita felice se l'era inventata Goffredo Parise. Questo è un articolo che apparve nel 1974, mi pare nel Corriere della Sera, in cui questo raffinato scrittore, poeta, saggista, articolista si difendeva dal fatto che non era così seriamente e inequivocabilmente collocato politicamente. Diciamo, ma tu che stai parlando di povertà? Ricordate che erano anni in cui cominciavamo a sentire in realtà il peso dell'illusione del nostro boom economico, anno 1974, gli anni in cui cominciava a parlare di austerità, di crisi petrolifera, si cominciava a sentire i primi segnali di inquietudine nelle piazze d'Italia, i primi, se non proprio i primi, ma i segnali più concreti. Quindi Parisi dicono: ma tu che vuoi, che dici, che predichi contro il consumismo? Quel tempo era Carosello, il simbolo del consumismo, immaginate. Beh, lui diceva: ma secondo me il rimedio alla povertà, se per povertà intendete una vita austera, una vita non complice comunque della sfrenatezza consumistica. Quindi questo già esisteva come idea, era un pensiero avversato da tutti. Allora oggi è un pensiero che fa profonde ideologie, in cui il mondo diciamo più politicamente corretto va per questa vita austera, prodotti naturali, orientamento naturale dei mobili, cibi naturali, vivere di poco. Sì, poi chiacchiere significa passare 10 giorni all'anno nel monastero zen, mangiarsi il riso e farsi dare le bastonate in testa quando si medita, e questo significa la povertà. Però c'è un altro côté in cui questo mito della povertà riviene fuori. Proprio un paio di giorni fa c'è stata abbastanza in sordina rispetto alla portata dell'evento, almeno nelle intenzioni, la santificazione di Madre Teresa di Calcutta. Sapete, una santa ormai sulla quale c'è tutto un grande dibattito. C'è chi dice che in realtà Madre Teresa ben poco avesse di santo, perché aveva questa sorta anche lei di culto del povero. Nei poveri, nei macilenti, nei malati, nei disgraziati, nei poveretti che erano nei suoi ospedali, si vedeva il volto di Cristo. Quindi dovevamo quasi noi ringraziarli del fatto che ci mettevano davanti questo bel reality show delle loro piaghe purulente, perché in loro vedevamo Cristo. E quindi i maliziosi dicono, non ho prove qui per confutare, che in realtà nei suoi tantissimi ospedali lo girano tanti soldi, in realtà curati ne venivano curati pochi, perché devono stare lì a rappresentare quanto loro, in quanto poveri e macilenti, rappresentavano il miracolo di Cristo. Ecco, detto questo, mettendo insieme queste due idee, mi sono visto, come ho detto poco fa alla collega del giornale radio, tutto il pomeriggio melenso della televisione pubblica e commerciale sulla santificazione di Madre Teresa, e vedevo che tutte le conduttrici, che fino a 5 minuti prima magari facevano vedere quanto è bella la dieta del carciofo retroflesso per le signore hanno accumulato grasso durante le vacanze estive, improvvisamente anche loro con la lacrimuccia agli occhi, cioè quanto è bello il povero, guardiamo il povero, e più guardavano figure macilente, più pensavano che fosse bello. Ecco, la domanda che faccio oggi: siete sicuri, come diceva Parise negli anni 70, che il rimedio sia la povertà? Chi è che può dire che è bello essere poveri? E chi è che può dire che in realtà bisogna tutti essere più poveri, perché essendo più poveri ce n'è per tutti? C'è differenza fra il povero per scelta. Io dico: sono una persona austera, non ho bisogno di nulla, quindi mi accontento di poco. Ma perché non ne ho bisogno? Sono felice così. È il povero che per dannazione nasce povero, è disgraziato, è morto di fame, c'ha mille problemi, o perlomeno è un povero mascherato, quelli che oggi sono più facili, che li troviamo anche fra i nostri amici, che vive nel bluff, vive nell'apparenza, quando in realtà non ha realmente quello che dimostra di avere. Chi è che può dire che il rimedio sia la povertà? Siete convinti che sia proprio così bello essere poveri, che nel povero si rispecchia l'immagine della salvezza? 800 24 00 24. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Fin dall'adolescenza Madre Teresa fu mossa dal desiderio di diventare missionaria per curare le ferite di moribondi, scartati, derelitti. Cominciò così un lungo percorso di aiuto nei confronti dei più emarginati. Nel 1948 fondò a Calcutta la Congregazione Religiosa delle Missionarie della Carità. Qualcuno dice che il vero miracolo di Madre Teresa, divenuta beata nel 2003, sia stato quello di far pregare insieme tutti i potenti del mondo. Avvenne il giorno dei suoi funerali a Calcutta, il 13 settembre del 1997. Presenti capi di Stato, di governo e rappresentanti di tutte le religioni. Tanti resero omaggio a quell'umile suora che aveva sempre vissuto in povertà, accanto ai meno fortunati, ma che aveva rapporti con i più importanti della terra, dal Papa al Presidente degli Stati Uniti. Fortissimo il legame con Giovanni Paolo II. Non voglio sembrare blasfemo o cattivo, ma è cambiato in una virgola il mondo dopo che tutti i potenti hanno pregato insieme nel grande mitologico giorno del funerale di Madre Teresa. Sì, perché è giusto. La creazione di un santo significa far entrare nell'aura del mito, nell'aura del sovrasensibile un essere umano, perché ha virtù eroiche. Naturalmente pieno rispetto per chi ha appunto nella Chiesa dei Santi un punto di riferimento sovrannaturale, però non si può dire che in realtà è la creazione di un mito, la creazione di una sorta di tutti potenti che si piegano di fronte alla povera anziana suora. Sì, ma cosa cambia per quei poveri morti di fame, disgraziati, pieni di piaghe? Cosa è cambiato un istante dopo? Mauro, buongiorno. Buongiorno, intervengo con molta soddisfazione in questa discussione perché ho una testimonianza vivissima, la mia, quella di una persona che ha combattuto un po' questi stereotipi. Sono nato in una famiglia felicemente agiata che mi ha allenato anche in sacrifici in quanto imprenditore. I miei familiari hanno conosciuto l'esperienza della povertà materiale di chi ha trovato opportunità nelle ditte, nelle attività dei miei genitori, e io mi sono un po' misurato proprio sperimentando la fatica del lavoro e i sacrifici. Oggi, dopo una felicissima esperienza di agio, mi trovo, per vicende storiche, parlo di crisi, è messo la soglia della povertà e misuro con un certo orgoglio quanto di ipocrita ci sia in quei ragionamenti che elogiano la povertà negli altri, ovviamente, perché la rincorsa è quella di creare un fascino attorno a un falso mito. Perché, signori, a me non è mai mancato champagne, foie gras, ostriche e qualsiasi ben di Dio. Ho conosciuto collegi nominatissimi, mi sono permesso studi. Oggi che misuro con difficoltà i limiti, vedo che la vera ricchezza risieda soprattutto in quella nobiltà d'animo che hanno saputo trasmettere ai miei genitori alla luce di un concetto, ovvero che non è su questa terra la ricchezza da conseguire, ma è bene che ci sia ricchezza, se usata strumentalmente a servizio degli altri. Certo, diventa malevola e sicuramente non amata e non ben voluta dallo stesso Signore quando è a scapito di tanti poveracci che di strumenti, di possibilità non hanno. Lei, Mauro, fermi un attimo. Ho aspettato molto perché era interessante e, diciamo, è proprio l'esempio che mi serviva per partire con questa trasmissione. Lei è figlio di un'imprenditoria nobile, su basi etiche, che è quella che in fondo ha creato le fondamenta del benessere del nostro paese, che in parte ho conosciuto io, anche se la mia non è mai stata una famiglia ricca, però una famiglia che ci insegnava l'austerità. Quella cosa si mangia se è il momento di mangiarla, se non c'è bisogno non si compra. Il fratello grande passa le scarpe al fratello piccolo, non perché non ci sono i soldi per comprarle, perché è così, siamo stati abituati a essere austeri. A me mi accusano, come se tu che per te non fai nulla, non fai le vacanze, non ti compri. Sì, ma non perché sono micragnoso, io sono molto prodigo, perché mi hanno insegnato così, io mi riconosco in lei. Le famiglie che ti insegnano l'austerità, pur avendo i mezzi a disposizione, ti insegnano ad essere austero e ti fanno il più grande regalo, Mauro, perché sapendo che comunque quella ricchezza che loro hanno accumulato per te è segnata sempre dall'improbabilità che il tempo potrebbe portartela via, lei oggi ha bevuto champagne e ha mangiato ostriche, ha conosciuto bene la vita, tirerà un pochino più la cinghia, ma la fa con grande dignità, come quelle figure iconografiche delle persone che comunque hanno la serenità di aver conosciuto questa e l'altra realtà, o sbaglio? È verità, anzi le dico, senza provare disprezzo, ma provo veramente una gran pena per coloro che veramente non hanno questa concezione. E anzi, io forse illuminato o sorretto, non lo so, da un'ottica di fede, penso che le omissioni e le mancanze di chi oggi ha o insegue dei falsi miti come la materialità, carità tout court, veramente paglierà lo scotto di questa povertà e di questa miseria, perché la miseria, proprio mi ha anticipato, la si misura proprio a fronte di certi valori e certe ricchezze. Oggi io dico, magari la cinghia è un po' più stretta, però vedo tanta gente patire materialmente, non mi tolgono lo sorriso, e gli altri patimenti semmai mi incoraggiano ad avere veramente una forza e un coraggio nello sperare sempre meglio. E guardi, confido molto in questi valori, e la vera ricchezza che Dio possa avermi concesso come quello che lei menzionava, una trasmissione di valori che sono assolutamente non valutabili dal punto di vista materiale, monetario, non c'è valore a fronte di queste cose. E lei ringrazio Nicoletti perché il mito sul povero operaio a fronte di queste cose o del ricco a tutti i costi collano, perché c'è un'essenza. Anche perché il povero operaio, da quando ha cominciato a potersi comprare la 600, oggi è diventato ben tutt'altra cosa, ma non li si può negare, se ce l'hanno gli altri è giusto che cresca. Il problema teorico in partenza sbagliato era che le classi sociali fossero come le caste, uno nasce lì, li rimane per sempre, no? Ognuno cerca sempre di emergere. Franco, buongiorno. Buongiorno, sono io. Sì, Franco. Dunque, chi è che può dire che è bello essere poveri? No, il problema secondo me è che una specie di lobby a livello mondiale, questa è una mia teoria, vorrei sapere cosa ne pensate, magari mi dite che sono pazzo, no? Basta che non dice delle scie chimiche, va bene tutto, sì. No, allora, siccome quando io ero piccolo ero figlio di una famiglia poverissima, non mangiavo quasi mai la carne, c'era poco da mangiare, poi le rare volte che guardavo la televisione o sentivo la radio ce la menavano che il mondo non ce la fa nutrire tutti, ed eravamo 4 miliardi e mezzo, 5. Adesso siamo 7 e io che sono un tecnico sperimentale di formazione e di lavoro, quando vedo che tutti i supermercati del mondo sono pieni, che con quello che usa il McDonald's per alimentare il cibo, insomma ce n'è per tutti, no? Ce n'è soltanto che è distribuito male. Allora questa storia di voler a tutti i costi abbassare il proprio livello di vita non sarà per caso fatto da gente che odia profondamente la razza umana perché dice che è il cancro del pianeta, eccetera? Vorrei sapere cosa ne pensate. Non lo so, non ho in questo momento elementi per dare risposte certe. Somiglia un pochino in realtà a tutte le teorie un po' complottistiche. Le scie chimiche sono per avvelenare le persone, poi per limitare l'umanità. I terremoti vengono creati artificialmente. Esiste sempre la grande lobby che vuole affamare. È chiaro che sul consumismo si basa il nostro benessere, la nostra serenità. È chiaro, hanno inaugurato un nuovo supermercato qui sotto la radio. Sono andato a vederlo con Intonti. Sembraviamo le piccole fiammiferaie quando accendono il cerino. Il settore bio, improvvisamente avevamo 300 scelte fra il tipo di panino su cui avremmo messo dentro la mortadella. È chiaro che di fronte a questo pensare che poi debba esistere un'immagine sofferente, macilente all'umanità, che è bello che ci sia perché lì vediamo la passione di Cristo, ma ci sarà pure una via di mezzo. Ci fermiamo un istante, dover dare la linea, poi abbiamo un ospite che in realtà di povertà se ne intende veramente, di quella vera, di quella terribile. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Melog. Cronache meridiane. Povertà vuol dire rifiutarsi di comprare robaccia, imbrogli, roba che non dura niente e non deve durare niente in omaggio alla sciocca legge della moda e del ricambio dei consumi per mantenere o aumentare la produzione. Povertà è assaporare, non semplicemente ingurgitare in modo nevroticamente obbediente un cibo, il pane, l'olio, il pomodoro, la pasta, il vino, che sono i prodotti del nostro paese. Imparando a conoscere questi prodotti si impara anche a distinguere gli imbrogli e a protestare, a rifiutare. Povertà. Questo è sempre Goffredo Parise, che oltre ad aver anticipato la crescita felice aveva anche anticipato Italy e tutte le mitologie che ci sono intorno. L'olio, il pomodoro, il pane, i prodotti sani. Però aveva ragione, in qualche maniera voleva far capire che il consumismo, anche se olia e i meccanismi dell'economia, in realtà dal punto di vista personale, etico, non è certo la soluzione giusta, anche se poi non si finisce mai. Questo diceva Parise, questo dice Madre Teresa di Calcutta, detto santa, in una controversissima dichiarazione che è alla base proprio di tutti i suoi avversatori. C'è qualcosa di meraviglioso nel vedere i poveri accettare la propria sorte, sopportandola come si trattasse la passione di Cristo. Immaginate, i poveri indiani muoiono di fame e di malattia, dice, l'accettiamo perché è come la passione di Cristo. Il mondo ha parecchio da guadagnare dalla loro sofferenza. Alberto Salza, buongiorno. Buongiorno. Antropologo, tra i suoi saggi ricordiamo Niente, come si vive quando manca tutta, tutto, Antropologia della povertà estrema, un libro di Sperling e Kuffer del 2009. Alberto Salza è espertissimo della povertà dell'Africa, forse un po' meno sa dell'India, ma di poveri ne hai visti tanti. Quando hai guardato i loro occhi di povertà e di sofferenza, hai visto il meraviglioso della passione di Cristo? Beh, siamo riusciti questa mattina a inventare una nuova categoria, che è l'economia morale. Un po' meglio questo, un po' peggio quell'altro. Quando si ha davanti veramente il vuoto, non esistono più questi meccanismi semplicistici di analisi. Terribile è quello che viene fuori del discorso della condivisione. Io quando mi sono trovato in luoghi dove non c'è un gabinetto, non ho nessuna intenzione di condividere con i poveri la mancanza, l'assenza del gabinetto, l'assenza del mangiare. Mi metto a scavare una latrina, certo, e cerco di trovare da mangiare in qualunque modo. Non esiste la miseria, è veramente una sensazione analoga a una penetrazione sessuale violenta, distrugge completamente l'umanità. Infatti si dice sono fottuto, proprio per questo dice, sono fottuto, quando uno ha una disgrazia economica dice t'hanno fottuto, così. Sì, anche se però, attenzione, io continuo a sentire in questi giorni abbiamo perso tutto, in realtà intorno a queste persone che dicono abbiamo perso tutto c'è uno stato assistenziale, ci sono degli amici, sono delle persone che continuano a versare dei quattrini perché le cose si possono ricomprare. Il vero problema... Parli dei terremotati. Sì, certo, che per carità, disgrazia terribile, ma in sostanza esiste una rete assistenziale, anche umana, immateriale, non solo materiale, che ravvivi un pochettino i loro occhi. Dopo 35 anni di guerra civile in Sud Sudan, mi sono reso conto che non esisteva la parola povero nelle lingue locali. E mi è parso molto strano, mi hanno detto ma se sei povero sei morto, non è nulla, quindi non puoi campare. Finché un ragazzino che aveva vissuto tutta la guerra civile mi ha dato questa semplice definizione: povero è colui che non può aiutare e non può più essere aiutato. Salta completamente il discorso economico, il discorso di cose, di oggetti, di cibo, è tutta relazione. Se riusciamo a recuperare questo concetto, allora forse ci rendiamo conto che la povertà è un abisso personale che va condiviso con qualcuno, nel senso che devo per forza costruirmi una rete che mi dia perlomeno la possibilità, la speranza di venirne fuori. Quando crolla questa rete si ha la miseria vera. Noi purtroppo abbiamo un'economia molto fiorente e una quantità di relazioni sono molto più basse, quindi leggiamo la povertà con modo altalenante, su, giù, troppo di questo, poco di quell'altro. Infatti parliamo, Salza, parliamo sempre di soglia della povertà. Siamo sempre in una zona liminare, perché probabilmente la vera povertà, quella che tu descrivi e hai conosciuto, non abbiamo nemmeno lontanamente l'idea di cosa sia. No, certo, perché quando io ricordo il famoso dollaro al giorno, io avevo intorno a me gente che mi guardava e diceva che cos'è un dollaro, perché non avevo neanche la minima idea di quanto potesse comprare. Davvero il salto che da fare nei confronti della miseria è quello di considerarlo un fatto immateriale, l'unica maniera possibile, non dico spirituale, mai, perché nessuno si dovrebbe arricchire sulla miseria neanche spiritualmente, tanto per tagliare la testa al toro ai viaggi sostenibili che vanno negli slums, poi il giorno dopo vanno a vedere le gazzelle. Quindi cercare di intervenire su tutto ciò che non è strettamente materiale, perché è quello che poi permette eventualmente di ricostruire i beni materiali che non ci sono, che sono necessari, ma senza questo tipo di relazione profonda tra le persone, molto difficilmente si riuscirà a recuperare anche concetti importanti come la ricchezza strumentale che citava Mauro, o i supermercati pieni come elemento di rassicurazione. Serve veramente un salto di paradigma, perché è indescrivibile. Un po' mi sono trovato di fronte a problemi che ho affrontato poi in seguito, analoghi a quelli di descrivere Auschwitz. Cioè non è molto facile, ecco. Ci mancano proprio delle categorie mentali per capire cosa sia. Diciamoci la verità, è inutile che dire. Poi è bello dire risparmiamo, riutilizziamo, ricicliamo, usiamo gli avanzi della sera prima per fare il polpettone il giorno dopo. Ci fa anche sentir buoni, ma è altra cosa. In realtà, assolutamente, io non voglio aiutare la gente a morire, voglio aiutarla a vivere. Questo me lo diceva un missionario, io appunto non sono credente, ma questo era un sant'uomo che ce l'aveva con Madre Teresa in qualche modo. Quindi esisteva, diciamo, questa fronda all'interno dei suoi stessi colleghi. Dice, ma come? Noi dobbiamo salvargli la vita, no? Dire quanto sono belli, grazie a loro ci accorgiamo che esiste la passione. Direi che sarebbe proprio, come dire, beh, dato che abbiamo raschiato il barile, almeno guardiamo quanto sono belli, facciamoli diventare un'icona importante. È un sacrificio che si chiede in più ai poveri. Questo. Sì, di essere un format per il nostro intrattenimento. Fermo un attimo, Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Io volevo, se poteva contribuire a questa discussione, portare la mia testimonianza personale. Io 20 anni fa sono andato a Calcutta, e 20 anni fa l'India probabilmente non è l'India di adesso, era l'India dove c'era una povertà veramente estrema che noi non possiamo nemmeno immaginare. E sono andato a Calcutta e nel Rajasthan per finalità turistiche, non certo per finalità mistiche. Ma trovandomi a Calcutta mi sono chiesto se c'era la possibilità di vedere dove abitava, dove stava Madre Teresa, mai immaginando di poterla incontrare. E invece mi sono presentato con un amico e una studentessa che avevamo conosciuto lì, tra l'altro dichiaratamente atea. Ci siamo presentati, abbiamo bussato alla porta e una suora ci ha detto: certo, aspettate qui, sta finendo di pregare e poi ve la presento. Ho conosciuto Madre Teresa e immediatamente sono caduto in ginocchio, pur non essendo una persona particolarmente credente, particolarmente devota, emanava sicuramente un misticismo, un'aurea straordinaria. Sì, però non se magna il misticismo, mi scusi. No, lei va bene, perché lei faceva il suo giro con i suoi amici, ma il poveretto che lei sfamava col misticismo probabilmente ha bisogno di qualcos'altro. No, ma infatti, quando le ho chiesto di visitare i suoi orfanotrofi, lei mi ha detto: vai in giro per Calcutta, è tutto un grande orfanotrofio. Poi sono riuscito a entrare nei suoi orfanotrofi tramite una volontaria e là si è visto quello che materialmente faceva Madre Teresa di Calcutta. Altro che guardare la miseria gongolando del fatto di vedere la passione di Cristo, ma dando da mangiare, da bere e curando centinaia e centinaia di bambini che invece sarebbero andati di fronte a morte certa, bambini malati di AIDS, bambini malati... Stefano, non confonda per bieco cinismo quello che ho detto. Io ho ripreso, magari estremizzandolo un po', ma nella mia natura, quelle che sono, diciamo, le posizioni ideologiche che in qualche maniera dicono: difficile pensare come modello di santità qualcuno che comunque afferma, pensa, dice. Poi c'è tutto un discorso più profondo sull'evangelizzazione a tutti i costi, sull'imposizione di un credo religioso. Sono cose in cui non voglio entrare, però, ma non voglio negare che sia esistito comunque qualcosa di materialmente utile fatto da Madre Teresa. Sarebbe madornale, sarebbe esattamente come dire le scechimiche, dire Madre Teresa non è esistita. No, non è così. Però se uno va a vedere quello che oggi ne rimane, cioè il mito, indubbiamente rimane anche qualcosa di molto concreto e via dicendo, ma non entro, dico, in quel fatto lì, è che la summa è che le signore della televisione si commuovono pensando: vedi, questa amava tanto i poveri, amava tanto i poveri. Come ci dice l'antropologo che una vita c'è stato in mezzo alla povertà indicibile, dice: sì, la povertà è qualcosa che assolutamente non può essere usata nemmeno per dire quanto mi sento illuminato dal fatto che esista il povero. Però fermo un attimo, volevo portare un'altra testimonianza. Leonardo Lenzi, buongiorno. Sì, buongiorno. Leonardo Lenzi è uno studioso di teologia, è stato docente di teologia morale fondamentale e speciale presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica al Sacro Cuore di Milano. Non immaginavo tutto questo, per me era semplicemente un amico di Facebook che ogni tanto seguo e vedo. Un giorno, qualche giorno fa, scrisse un aneddoto, mi sono accorto che è un insigne teologo e gli dico: raccontaci oggi per radio quello che hai scritto su Facebook l'altro giorno. Sì, no, in realtà è un aneddoto del tutto minore che comincia allo stesso modo di quello che è dell'ascoltatore che mi ha preceduto, Stefano, mi pare. Quindi c'era un tour dei Visa Santa Teresa che si faceva andando a Calcutta. Beh no, noi eravamo lì con della gente connessa un po' all'università dopo un anno che avevamo studiato l'Oriente, per cui c'era una preparazione, non era solo turismo. Comunque noi abbiamo bussato anche nell'ospedale dei moribondi, lì al Kaligat di Calcutta, e non ci aspettavamo assolutamente che saremmo stati presentati a Madre Teresa, la quale è arrivata abbastanza consapevole, a mio parere, del suo prestigio. Aveva già ricevuto il Nobel, era il 92, quindi era già nel mito, diciamo, sicuramente. Sì, era già assolutamente nel mito. E di questo era consapevole, infatti baciava delle medagliette, ce le consegnava una per una, confezionando una specie di reliquia. Cioè con il sacro sputacchio avevate, diciamo, la reliquia anche vivente. Non lo definirei così, però... Questo è però. Sì, sì. Il biascichio mistico. Però ecco, alla fine di questo passaggio, lei ha saputo che eravamo italiani dalla suora che l'assisteva, mi ha detto una frase incredibile, noi ci è voluto del tempo per realizzare che fosse così, ha detto italiani maccheroni, no? Dimostrando che la connessione tra italiani e pasta è viva da Charlie Hebdo alla mente dei santi, perché effettivamente anche lei immediatamente è venuta fuori questa associazione. Ma aveva senso dello cioè una battuta spiritosa, c'era del a mio parere noi l'abbiamo interpretata come una specie di parola da maestro zen, cioè era la frase più inimmaginabile e anche autodemitizzante in qualche modo che poteva venire fuori da quelle labbra, cioè noi ci siamo rimasti all'inizio attoniti, poi l'abbiamo letta così. Cioè lei ha voluto offrire una frase demitizzante. No? Sembrano quasi le frasi di Osho che circolano sui social network. Sì, sembrano quasi quei fake di Osho, sì, esattamente. Sì. Ma fa di voi che eravate tutti teologi, persone di spessore? No, non eravamo tutti, la maggioranza erano giuristi. Però... Ma come si è spiegata però questa roba qua? Visto no, che... non si è spiegata affatto, poi è entrata in cappella. Se hai fatto qualche domanda, tu che sei in fondo... uno studioso di mistica e teologia, sa esattamente, cioè, come mai aveva detto maccheroni? Mi disprezzava, mi considerava qualcosa di antitetico rispetto a quello splendido modello di sofferenza che pensava utile per l'umanità. Qualche domanda me la farei io. Sì, può essere che ci fosse un atteggiamento comunque di considerazione, come se... fossimo un po' dei guardoni del dolore, cosa che in realtà non eravamo però in quel caso, però è possibile che lei riceva o ricevesse in modo quasi ininterrotto delle persone che vanno a osservare delle cose che mi pare abbia detto anche Alberto Salsa sono quasi inosservabili, indescrivibili, ecco. Quindi è possibile che ci fosse stato anche questo atteggiamento un po' di sufficienza nei confronti di persone che chiaramente non apparteneva. Allora, professor Lenzi, ti chiamo Leonardo perché sei amico di Facebook, sì, sì, ma sì. Capisco, adesso è persona di rango. Devo dare un attimo la linea a un'interruzione, però mi serve dopo che tu mi aiuti a decodificare, in quanto studioso di teologia, quanto in realtà c'è in questo messaggio del culto del macilento come specchio della sofferenza, che è un specchio comunque della caducità, del disprezzo di questo mondo, perché esiste un altro mondo. Fermo certo. Un attimo, tra poco però. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago 8-11 settembre. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Chi è che può dire che il rimedio sia la povertà? Diego, buongiorno. Buongiorno a te Nicoletti, buongiorno. No, io intendevo, secondo me bisogna fare una distinzione oggettiva tra povertà e indigenza, no? Mm. La povertà alle nostre latitudini, secondo me, sta diventando un obiettivo, nel senso che le persone, la gente, se prima non la considerava nemmeno per sbaglio, adesso invece incomincia a considerarla una reale possibilità che possa coinvolgere la propria vita. E quindi di fatto sono iniziati dei meccanismi, secondo me, di partecipazione a questo concetto affinché le persone comincino a farsene anche un'idea e cominciano a prepararsi a questa opzione che fino a 10-15 anni fa non era nemmeno contemplata. Sì, ecco, scusa, è come la macabra barzelletta che una volta disse Berlusconi, il medico dice al malato fatti le sabbiature, dice, ma perché così ti abitui a stare sottoterra? Che vuol dire? Uno pensa che ideologicamente è bello essere poveri perché vede che comunque gli sta per arrivare la batosta. No. Ideologicamente non pensa che sia bello essere poveri, ma incomincia a farsi l'idea che è possibile diventare poveri, cosa che fino a qualche anno fa questo non era minimamente concepibile. Mentre oggi comincia a essere una possibilità molto concreta per la vita che uno fa, per il mondo dove vive e per l'assoluta mancanza di qualsiasi tipo di tutela. Molto spesso si confonde con l'indigenza, che è tutta un'altra cosa, ovviamente. Vediamo se lei riesce a spiegarmi però la differenza, perché come ci ha detto Salsa, che i poveri veri li conosce, l'ha visti, sì, ma voi non vi rendete conto nemmeno se si è essere povero. Povero è quando veramente non sei più in grado di aiutare un'altra persona e nessuno ti può aiutare, quindi non c'è nessuno, né più sfigato né meno sfigato di te, sei già al punto zero della non esistenza. Dipende dal peso che noi diamo al benessere. L'indigenza, come noi la consideriamo, rappresenta ormai più del 60% dei paesi del mondo, però molto spesso nei paesi in cui noi vediamo un'indigenza estrema c'è anche una maggiore felicità e serenità rispetto al mondo che noi tanto ci compiacciamo. Questo secondo me è un mito che nei paesi dove no, si va... Lo dicono, sì. Guardi, chi viaggia, c'è un'amica che da poco ha viaggiato in zone medio orientali, però sai, vedi queste persone che non hanno nulla e ti sorridono, sono felici. Piffero, ti arriva la gita turistica con le signore belle, carine, fai il bel sorrisino e speri che ti allunghino mezzo dollaro, non so, penso che questo, se potessero, se le mangerebbero al girarrosto, secondo me, non lo so, forse sbaglio. No, non è questione di sbagliare o meno, è questione di interpretare la povertà e culturalmente l'indigenza in un certo modo. Allora, noi non possiamo pensare che il benessere sia dato solo unicamente dalle cose ovviamente materiali. Chiaro, anche perché ne abbiamo dei riferimenti ben diversi. Anche perché chi più ce n'ha no? più ne vorrebbe non sta mai contento. Quindi. Chi più ce n'ha più ne vorrebbe. Ovviamente adesso la percezione della povertà si è amplificata perché la cultura di massa è stata anche ovviamente stimolata dalle tecnologie, da internet, dai cellulari che hanno incominciato a girare anche in quei paesi in cui fino a qualche anno fa non esisteva questa possibilità e quindi hanno incominciato a capire anche che esistono altri modelli di vita. E ovviamente fa piacere a tutti, no? Compreso sì, anche però capisci, Diego, sono sempre scelte culturali e anche molto artificiali. Me ne voglio andare un periodo in un'isola dove vivo bevendo il cocco e stendendomi sulla storia. Sì, grazie al piffero, perché sai che torni a casa, c'hai il tuo letto orientato feng shui col tuo parquet di lusso e con la cameriera te lo pulisce prima che arrivi. Leonardo Lenzi, mi ero interrotto con il teologo, mi spieghi bene questo concetto, ma esiste veramente o era una forzatura di Madre Teresa? Che i poveri devono esistere, ci devono dare lo specchio della sofferenza, bisogna amare i poveri per questo, i poveri non devono uscire dalla loro condizione di povertà. Ma non so, a me sembra che nel cristianesimo ci sia sempre stata una considerazione contraddittoria, ma vorrei dire ambivalente della povertà. Da una parte è il male da combattere, da sradicare, ci sono tutte le opere di carità del cristianesimo destinate a questo fine, dall'altra parte c'è effettivamente la povertà vista come ideale di vita, vista come stile cristiano, prototipo, eccetera. A me sembra che questa contraddizione, questa ambivalenza consenta di fatto al cristianesimo di non diventare né un'ideologia sociopolitica né una specie di fascinazione folle e pauperistica. Né il rimedio per tutti i mali terreni, sennò fallirebbe chiaramente. E infatti, cioè né il rimedio per tutti i mali terreni né quella fascinazione diciamo jacoponica o francescana per cui la povertà è l'amante verso cui si corre. Sì, ogni tanto ci provano a ridirlo fuori. Fermo un attimo, aspetta Leonardo. Anna è la prova di quello che sto per dire io. Anna, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io sono molto emozionata, non so se riuscirò a parlare. Comunque, ma perché io sono povero per questo povertà. Si emoziona? Come? Perché io sono povero per questo lei si emoziona. No, quando parlano di povero, specialmente quando ho sentito dal Papa il denaro è lo sterco del diavolo, lui non ha mai trovato che cosa vuol dire povertà. La povertà ti toglie la dignità di persona, il povero non è libero. Sì, ma se è lo stecco del diavolo, se quindi puzza e va pulito, perché non danno l'8 per mille, ad esempio, che ne so, per un anno ai terremotati, così tolgono un po' di sterco dalle loro casse, mi scusi la volgarizzazione, e stanno tutti meglio, sento meno puzza. Se puzza appunto, tanto, perché abbiamo parlato di Ior? Non so, boh. Sì, mi sta bene. Se, No, dicevo, io la povertà l'ho provata sulla mia pelle. E sa che cosa mi ricordo di quando ero piccola? Del freddo. Scusi se... Lo so, la prima cosa, le nostre case riscaldate non ci accorgiamo che cambia il tempo. Quando sì, i momenti sì. che si è un po' più pori, si entra in casa a mettere i calzerotti e il cappuccio di lana per andare a dormire, perché il letto è una ghiacciaia, e so bene di cosa si tratta. Sì. No, ma noi non è calzerotti. Quindi poi quello che mi umiliava di più era che tutti ti guardavano con l'aria compassionevole, però se ti davano qualcosa, ti davano un vestito magari liso, magari importabile, la roba, se ti regalavano qualcosa di da mangiare... È la logica della beneficenza di Alto Loco. Diamo della roba vecchia e diamola ai poveretti. Alberto Salza, lascia a te la conclusione. Hai avuto un campionario di luoghi comuni in occidentale che io condivido molte volte, molto spesso. E me, dimmi la tua conclusione dal tuo punto di vista. Intanto io sono stato a Calcutta un paio di volte e mai mi è venuto in mente di andare a trovare Madre Teresa di Calcutta. Chissà perché. Come unica conclusione ricorderei il buon samaritano, visto che siamo in termini molto biblici. Se il buon samaritano non avesse avuto dell'olio e del vino, non poteva curare il malcapitato che ha incontrato. Non avrebbe potuto portarlo al riparo se non avesse avuto un cavallo. Non avrebbe neanche potuto pagare l'oste per tenerlo lì se non avesse avuto del denaro. E quindi avrebbe semplicemente potuto assisterlo mentre moriva francescanamente. E l'altro avrebbe detto: grazie che mi assisti, ma io muoio sfigato lo stesso e tu sopravvivi, quindi stai meglio di me. Grazie a tutti, alla prossima.